Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, il Milan è sempre lì a 4 punti, ma la sensazione è che per l'Inter il momento più difficile sia passato. Non era semplice giocare a Udine con tutte quelle assenze, soprattutto in difesa, con Thiago Motta centrale, tanto più subendo un gol magnifico dell'Udinese dopo un minuto, che avrebbe steso al tappeto non dico chiunque ma tanti però. E invece l'Inter è ripartita ancora più carica, trascinata da un grande Balotelli. Adesso domenica sera contro il Genoa può tornare, io penso, a scavare un solco decisivo. Può, sempre che la sera prima, sabato, la Roma fermi il Milan come nei voti giallorossi dopo la delusione di ieri a Napoli. In ogni caso questo doppio incrocio di domenica sera probabilmente dirà una parola ancora più chiara sulla classifica. È stata la giornata di Ada Hilton e del Bologna. Ada Hilton è alla prima tripletta, mi segnalava Franco Piantanida tra le sue tante curiosità del lunedì, è la prima tripletta in carriera per Ada Hilton dopo 14 anni. Brasiliano che era arrivato nel 96 in Italia al Parma, poi è stato a lungo al Genoa, questo ieri non gli ha impedito di esultare con molta correttezza, tra l'altro, e con molta classe e con altrettanta sincerità ovviamente, per questi 3 gol segnati a Marassi. Quindi la giornata di Ada Hilton del Bologna, del Chievo e del Parma, che ormai sono praticamente salve anche per la concomitante sconfitta interna del Livorno, il Siena torna, sia pure un po' timidamente, a sperare, e poi in serata è arrivata questa netta vittoria del Palermo a Torino grazie a un gioiello di Miccoli, ma in ogni caso a un grande secondo tempo collettivo. Proprio Miccoli ha firmato, se non il gol più bello della giornata, certamente uno dei più belli. Aveva già cominciato gli AMA il giorno prima con un mancino fuori area molto bello a Catania, bellissimi 2 gol di Balotelli e di Vucinic per la potenza la semplicità e la coordinazione con cui hanno battuto in porta. Certo, se parliamo invece di azione, credo che l'azione del gol di Maicon sia stata una delle più belle probabilmente degli ultimi anni, perché una combinazione a quella velocità e di quella potenza e conclusa in quella maniera così perentoria, ma insomma non è facilissima da vedere. Poi ci sono anche risvolti meno positivi, a cominciare da quello che ha visto protagonista ancora una volta l'arbitro Rocchi a Parma, Rocchi che aveva già inquinato e non poco lo svolgimento dell'ultimo derby a San Siro. Cominciamo a sentire qualche voce di protagonisti di ieri, in attesa come sempre a lunedì delle vostre prenotazioni. Il commento mesto di Zaccheroni alla partita. In realtà penso di cominciare a conoscere bene questa squadra. Questa è una squadra che in questo momento sta facendo i punti con una grande compattezza, con la disponibilità dell'organico che abbiamo avuto in questi giorni. Voglio arrivare a dire questo. Con le coppe noi abbiamo bisogno di qualche alternativa in panchina, qualche titolare in più. A Bologna già eravamo calati, avendo giocato di giovedì eravamo calati notevolmente. Siamo riusciti a rimediare con i cambi, soprattutto centrocampo, che è il reparto che, come ho sempre detto fin dal mio arrivo, è il motore della squadra. Se caliamo centrocampo e non riusciamo a rimanere dentro la partita, diventa estremamente complicato. Poi ci sono delle squadre come il Palermo che ne riescono ad approfittare, anche se ho trovato un gol, un autentico jolly, perché di quello si tratta, però loro sono stati bravi anche ad avere pazienza. Beh, hanno trovato il jolly, ma erano 10 minuti almeno, se non qua, che stavano prendendo a pallate letteralmente la difesa e il centrocampo anche della Juventus. Un'opinione abbastanza netta di Zaccheroni su Diego. Diego, se potevo, lo lasciavo anche fuori qualche partita, non qualche minuto, perché è dall'inizio del campionato che lui, Chiellini e Melo giocano con continuità, coppe e campionato. Nessun giocatore può disputare così tante partite ravvicinate. Per la Roma a Napoli, domanda Damiano da Roma, sono 2 punti persi o 1 preso? Beh, insomma, Damiano, per l'andamento della partita sono certamente 2 punti persi, perché se a 10 minuti scarsi dalla fine stai vincendo 2-0, sono 2 punti persi. Per l'andamento invece, cioè per l'esame della partita stessa e per la difficoltà della trasferta, soprattutto dopo quella batosta in casa contro i greci in Coppa, secondo me è un punto preso, e tutto come sempre dipende dagli avversari. Cioè, io credo che se l'Inter ieri avesse soltanto pareggiato a Udine, come poi in fondo poteva tranquillamente accadere alla fine con quella traversa, e come ci stava ampiamente anche in base all'andamento della partita, un pareggio della Roma-Napoli sarebbe stato un gran risultato, perché tutte le distanze sarebbero state invariate e nel frattempo la Roma avrebbe scavalcato un ostacolo di quelli decisamente alti. C'è già un ascoltatore collegato. Allora, il primo di oggi si chiama Walter e ha chiamato da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io da molto che non seguo più il calcio, però recentemente mi sono un po' interessato, ho visto qualche partita. I miei amici dicevano tutti che l'Inter giocava male, che Mourinho è fortunato, eccetera, eccetera. Però ho visto la partita di ieri esemplare in questo. Gli uomini sono più forti di tutti gli altri. Però quando mancano i forti, gli altri cosa fanno? Giocano allo stesso livello. Ci significa che ha giocatori più forti, ma più determinati, più incisivi. Questa è la mano dell'allenatore. A me ricorda, sono tifoso di calcio da tempo, ricorda Rocco. Rocco vinceva sempre, dicevano, per fortuna, di sghetto, in Europa tutti attaccavano e il Milan faceva poi dei gol in contropiede, eccetera, eccetera. E infatti anche in Coppa abbiamo visto che il Chelsea forse ha fatto la partita, però l'Inter l'ha vinta. Calù in area, libero, libero, non tira, aspetta. Invece i giocatori dell'Inter tirano sempre, guardi Cambiasso. Sì, sì, sembra... Walter, non c'è dubbio, mi scusi, perché siamo arrivati vicini al traffico, poi le rispondo dopo, ma le preannuncio come biografo innamorato di Rocco, le preannuncio una querela comunque, mi spiace, ma un paragone Rocco Mourinho mi costringe a questa, anzi a farmi da solo il gesto delle manette, proiettandolo, temo, su di lei. È ovvio che sto scherzando. Ah, era rimasta in sospeso una risposta tra il serio e il faceto a Walter, l'ascoltatore di prima di Pesaro, che aveva azzardato questo paragone. L'Inter ha una strepitosa rosa di giocatori, sicché nessuno mi sconosce i meriti del tecnico, però io anteporrei quelli della società che ha messo a disposizione dell'allenatore questi giocatori, sicché Balotelli oggi credo che sia il quarto attaccante dell'Inter, no? in scala gerarchica. Io credo che sia persino imbarazzante la superiorità della rosa dell'Inter sulle altre rose. Se poi vuole insistere con i paragoni, io provo a ricordarle che nel doppio ciclo di Rocco al Milan, io credo che il Milan non abbia mai speso con Rocco allenatore la somma che Mourinho ha destinato al solo Quaresma, e quindi credo che potrebbe bastare, io penso, per rimettere a posto le cose. Roberto ha chiamato alla provincia di Foggia, buongiorno. Buon pomeriggio, Garanzini. Dica. Salve, io sono un tifosissimo della Juve, della Juventus. Sto vivendo un anno di agonia, proprio nel vero senso della parola. Volevo una sua opinione personale, ma secondo lei qual è il vero motivo di questo disastro? Cioè io sono anche, non so, spendo dei soldi mensilmente per vedere le partite, cioè sento come avverto una mancanza di rispetto anche nei nostri confronti per questa catastrofe. Ma io non la metterei, mi scusi Roberto, su questo piano, perché i soldi li spendono anche i tifosi del Palermo per veder vincere il Palermo, li spendono, no? Non è che adesso solo il tifoso della grande squadra ha diritto al rimborso perché la grande squadra non vince, e parlo della Juventus ma anche delle altre, no? Secondo te qual è la vera ragione di tutto questo andamento così brutto e negativo, veramente? Sono tante, perché non ce ne può mai essere una sola. Questa è una stagione nata a rovescio, indubbiamente, nata così per qualche errore che è stato commesso in estate, qualche errore che è stato commesso in primavera. Cioè, io penso che l'errore capitale sia stato commesso lo scorso anno con licenziando Ranieri, e soprattutto in quella maniera traumatica. Penso che quell'errore materiale fosse già figlio di un errore concettuale, cioè una sopravvalutazione della rosa e della squadra in generale. lì si sono sommati poi errori di mercato, si è sommata l'errore della scelta di un allenatore che si è dimostrato poi non essere all'altezza da un punto di vista, non essere ancora all'altezza se non altro da un punto di vista gestionale, e poi quando le stagioni cominciano così male rischia di finire a rotoli come sta in effetti andando al momento almeno, ma insomma è difficilina da raddrizzare la stagione della Juventus, anche se paradossalmente la Juventus ha questa valvola di salvezza della Coppa, perché è chiaro che questa non è la Coppa principale, però sarebbe comunque ugualmente un bel trofeo, e può darsi che se falliscono gli altri obiettivi quello possa diventare qualcosa di importante, di interessante. Sentirei, a proposito di Napoli-Roma, sentirei la dichiarazione di Ranieri sui rigori del Napoli, cioè su quello dato che non c'era e su quello non dato che invece c'era, perché se la dichiarazione che ho già sentito ieri mi sembra molto interessante. Va bene, quello che ha fatto l'arbitro va bene, ha diretto molto bene, con polso fermo, per cui non ho nulla da dire. Ma anche sull'ultimo, l'arbitro evidentemente da dietro non ha visto potarsi il tocco con la coscia, c'era la mano un po' così aperta, per cui l'ha dato, insomma non bisogna stare a gridare al lupo. Fare l'arbitro è molto difficile, allora io giudico come è andata la partita per l'arbitro, per quello che posso giudicare io, perché non sono Collina, non sono un ex arbitro. Per me la gara l'ha diretta molto bene, con polso, e poi lui stava dietro. Ha visto questa palla che scappava via e ha optato per il calcio di rigore. Mi sembra che ci sia una discreta e indiretta lezione di stile rispetto a qualche saltimbanco che popola il mondo del calcio nostrano. Torniamo agli amici già collegati. Fiorenzo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, pronto? Dica. Buongiorno Garanzini. Senta, sono cadute anche le ultime cose rosa. Precisamente questo, Boskov diceva rigore è quando arbitro fischia. Ieri con la Sampdoria non è stato così. È vero. È vero Fiorenzo. Mi ha proprio ricordato quella frase mentre guardavo, perché come lo giudica lei parlando della Sampdoria che poverina ha giocato male, gli mancavano gli uomini, ma il pareggio ci stava anche bene. Però è così. Sì, a parte il fatto che la Sampdoria ha anche subito un gol irregolare, se vogliamo, perché in ogni caso quel giocatore davanti a, che mi sembra fosse Bogino, davanti alla porta sul tiro di Zaccardo, no, non può essere mai in posizione ininfluente, quindi secondo me era da annullare quel gol. Ma al di là di queste, che sono cose che vanno e vengono, non può andare e venire un errore capitale come quello di Rocchi. Rigore c'è quando rigore può non esserci quando arbitro fischia da ieri. In realtà era già accaduto, Fiorenzo, perché qualche rara marcia indietro di un arbitro anche su una sanzione estrema come quella del rigore ogni tanto si è registrato, però ieri è stato stabilito un record indubbiamente, che è quello della distanza, nel senso che le altre volte in cui era accaduto, mi sembra tardi ricordare un Rizzoli anche in tempi non lontanissimi, le altre volte che era accaduto cosa era successo? Che l'arbitro istintivamente fischiava un calcio di rigore, poi era magari abbastanza lontano dall'azione, alzava l'occhio o sentiva il cicalino dell'auricolare rispetto quindi la segnalazione dell'assistente, si consultava e poi cambiava idea. Perché? Perché l'assistente era meglio piazzata. Il mistero di ieri è questo, che Rocchi dà questo rigore stando a 3 metri esatti da dove si svolge il tamponamento di Galloppa sul Sampdoriano, quindi è a 3 metri, cioè se non può valutare, e a campo libero, se non può valutare quello lui, che lo deve valutare? E poi invece dà retta a un aggiornamento che gli arriva o da un assistente a 40 metri impallato da un sacco di giocatori, o al quarto uomo, che in genere si fa i fatti suoi, mi risulta, anche in situazioni ben più gravi di quella di ieri e che richiederebbero ben altri coinvolgimenti o autocoinvolgimenti, che in ogni caso è a sua volta a 30-40 metri dall'azione. Quindi si fa sconfessare lui, arbitro, da un collaboratore molto più distante e molto meno in condizioni di vedere. È un caso limite. Allora, ripeto, trattandosi di un arbitro che già aveva rovinato il derby a San Siro, con decisione Cervellotti, che con un'altra primizia, se non ricordo male, anzi ricordo bene, la primizia di un'ammonizione per simulazione a metà campo. E allora evidentemente questo è un arbitro che è abbonato ai casi limite, e io nei panni di Collina farei una seria, serissima riflessione sul suo utilizzo futuro. Sentiamo Marotta, il commento di Marotta su questo episodio di Parma che, ripeto, segna comunque un piccolo confine. Bisogna veramente arrivare alla tanta decantata uniformità. Io mi riallaccio a un rigore analogo subito da noi nel corso del derby di andata contro il Genoa, dove subimmo un rigore proprio uguale, con la stessa dinamica, e quindi ritengo incomprensibile quello che è avvenuto. Io non esprimo un giudizio definitivo, dico che l'arbitro era appostato benissimo perché era a 5 metri. Nel giro di un minuto dopo l'ammonizione ha cambiato idea, come vedete, senza intervento alcuno, perché il quarto uomo era vicino alle panchine, quindi era molto più lontano di lui. L'assistente si era diretto con i famosi gesti a indicare anche lui il rigore, di conseguenza riteniamo che sia un comportamento incomprensibile. Incomprensibile la parola giusta. Paolo scrive: il rigore per la Sampdoria non c'era, l'arbitro ha fischiato, si è fatto una moviola mentale e ha ammesso il proprio errore. Gli darei 8 in pagella. No Paolo, mi spiace, ma io gli darei meno 8, invece credo che sia quello che sia il voto che gli verrà attribuito per l'episodio di ieri. Luca da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Buongiorno. Allora, io sono un tifoso di terza quarta fascia perché tifo la Reggiana e quindi purtroppo abbiamo già le nostre disgrazie. Però vorrei fare un commento un attimo su Mourinho, perché è un grande allenatore, secondo me. Non si vede da un grande allenatore perché ha la squadra più forte d'Europa o una delle squadre più forti d'Europa. Ma un grande allenatore, secondo me, non è solo un allenatore che non fa spendere i soldi alla società, ma valorizza quello che ha, fa crescere i giovani ed è probabilmente anche molto meno arrogante di Mourinho, quindi penso che anche un Del Neri, anche altri allenatori probabilmente di seconda fascia visti da Moratti, non so, però sarebbero, non so se farebbero la stessa figura di Mourinho, ma penso che comunque altri allenatori potrebbero fare benissimo quello che sta facendo Mourinho. Certo, ritengo questo. Poi penso, lo penso anch'io, Luca, sin da quando è arrivato. Poi non c'è dubbio che da un'altra parte i risultati gli diano ragione. È sempre il rapporto però della forza che hai a disposizione, certo, e di come la valorizzi. Insomma, quelli sono i parametri più o meno per, non tanto per valutare, ma insomma per passare del tempo conversando, no? Mi sembra. Giuseppe ha chiamato da Latina, buongiorno. Buongiorno Granzini. Senta, volevo dire una cosa, no? Ho sentito le sue dichiarazioni il suo pensiero su Ranieri. Pronto? Sì. Ma non le pare che invece mi sembra un po' più ruffiano rispetto al solito Ranieri, perché comunque aveva subito un torto arbitrale il Napoli, quindi ritengo che insomma Ranieri abbia fatto un po' così, tra virgolette, ruffianetto, no? No, ha fatto la persona educata, ma vede, la persona colta ed educata oggi in Italia passa per l'appunto come dice lei, o passa per quello che dice lei, o passa per imbecille o per autolesionista. Questo è però il sistema paese di oggi, non è soltanto il sistema Carlo, è il sistema calcio. Ho la sensazione, senza offesa, che lei sia un buon interprete del sistema paese e di come funzionano appunto oggi le cose alle nostre latitudini. Vorrei avere una sua opinione, hanno scritto Giulio Massimiliano da Bergamo, sul cambio Diego Zebina, non ci abbiamo dormito tutta la notte, scrivono questi due ascoltatori. Non era meglio il giovane capocannoniere del torneo di Viareggio Immobile? Sì, secondo me sì, cioè secondo me di Zebina è meglio chiunque, ma questo lo sostengo dal 2001, mi pare, quando nonostante Zebina la Roma riuscì a vincere un campionato. Questo è sempre stato il mio parere su Zebina, giusto o sbagliato che sia. Il cambio di ieri sera io credo sia dovuto a un fastidio muscolare di Diego, così mi pare di aver colto, o comunque a un a un piccolo segnale di malessere, di intossicazione, va a sapere, di stanchezza o di qualcosa del genere. Beh, se no, sono d'accordo anch'io che non ha minimamente senso. Non solo, ma se così non fosse, beh, insomma, fargli pigliare, con tutto che i fischi ci stavano e come, ma fargli prendere una fischiata in più è un errore psicologico che uno come Zaccheroni, della saggezza di Zaccheroni, secondo me non commette, e quindi penso che sia stato un problema di quel genere. Un altro ascoltatore scrive: non pensa che questo Balotelli sia la nazionale? Secondo lei come mai Lippi non lo convoca in rosa nonostante in rosa non abbia un giocatore del genere? La risposta arriva, caro Manuelo, se non leggo male la firma, arriva direttamente da Lippi, che ha appena dichiarato: spero che Balotelli sia determinante mercoledì con l'Under 21, perché nonostante abbia giocatori importanti come lui non vive un momento felice. È un giocatore che ha mezzi e talento, all'Inter sta facendo un importante percorso per la sua maturazione, quando sarà completato mostrerà il suo talento con sostanza prima all'Inter e poi in nazionale. Nesta nel frattempo, ma questo l'avete già sentito al giornale radio, ha detto no definitivamente a un ritorno in nazionale. Lo ha confermato proprio Lippi dicendo: mi ha detto che non se la sente, e lo ha detto credo in maniera definitiva, mi dispiace, avrei voluto dare una scossa ma rispetto la sua decisione. Tocca a Pino dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Vorrei campare fino a quel giorno in cui lei farà un apprezzamento sull'uomo Mourinho. Beh, sull'uomo è impossibile. Che camperò a lungo, grazie. Pino, sul tecnico, sull'allenatore, sulle sue qualità tecniche eccetera non discuto, nel senso che possono essere più o meno apprezzate cose. Sull'uomo Mourinho, sulla persona Mourinho, su come ha inquinato il calcio italiano, che già non aveva bisogno, io mi spiace, ma l'opinione non la cambia. Potrebbe essere il migliore allenatore del mondo, magari lo è, magari invece no, non ha portato nulla di positivo per il calcio italiano da un punto di vista ambientale, da un punto di vista di educazione, di rispetto, di cultura eccetera. Dal mio punto di vista è un inquinatore, poi ciascuno è ovvio che si assume le responsabilità di quel che dice. Giuseppe, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo chiedere una sua considerazione sulla campagna che c'è contro Collina, cioè le società medio grandi si continuano a lamentare di Collina. Stamattina ho sentito un'intervista di Zamparini che si lamentava, ero rimasto che i dirigenti si lamentavano quando perdevano, quando avevano dei torti, ma adesso si lamentano anche senza niente di tutto ciò. Cosa mi dice? Le dico che insomma Zamparini secondo me non ha proprio la statura dello statista, no? Però è vero che da un po' di tempo ha cominciato una campagna, lui è comunque condivisa, ma non tanto contro Collina, insomma il bersaglio nato, il bersaglio, l'obiettivo è portare la classe arbitrale sotto la diretta gestione della Lega, perché così sostengono gli Zamparini che tutto funzionerebbe meglio. Le dirò che, poiché insomma credo che queste dichiarazioni, ripeto, di uno come Zamparini possano grosso modo lasciare il tempo che trovano, gliene leggo un'altra di stamattina di Zamparini, mi sembra più significativo. Sempre due sue dichiarazioni a Radio Anch'io Sport, su Rai 1, ha detto: Delio Rossi me lo voglio tenere stretto per molti anni, la nostra strada con lui andrà avanti per parecchio tempo, lei prenda nota per la credibilità del personaggio, prenda nota della data di oggi, siamo al 1 marzo 2010, si mette in archivio questa frasetta e poi ne riparliamo. Plinio da Arezzo, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie. Io voglio intervenire su alcune considerazioni fatte a proposito di Mourinho, da Vinter e di qualche altro allenatore. Certamente la valutazione di un allenatore non può prescindere dalla valutazione che facciamo su tutta la squadra, su tutte le equipe che dirige la squadra. Vinter è cambiata sostanzialmente, una squadra di pazzi più o meno è diventata una squadra seria, una squadra costruttiva, una squadra che agli appuntamenti arriva in maniera professionale e direi riesce anche a ottenerli. Credo che un po' di merito ce l'abbia Mourinho in questo e anche probabilmente tutti quelli attorno a Mourinho, però è cambiato notevolmente, non è più una squadra di pazzi, è una squadra seria, solida eccetera. Si è visto anche con la Sampdoria, ma in ogni caso stiamo parlando di sempre del coté professionale di Mourinho, e su guardi, quello sono il fattore umano di Mourinho non lo possiamo giudicare, tutto perché vediamo soltanto alcuni aspetti, quelli che ci fanno vedere i giornalisti o comunque i media, quindi non mi sento in grado di dare un giudizio. Plinio, mi scusi, a parte che magari riusciamo a evitare i comizi se possiamo, visto che abbiamo altri ascoltatori in attesa, ma se lei parla di carta stampata o di opinioni come possono essere le mie, allora è ovvio che si può giudicare fino a un certo punto, perché tutto passa attraverso il filtro di qualcuno che magari può essere prevenuto. Se parliamo invece di atteggiamenti che vengono immortalati da telecamere o da frasi che vengono immortalate da microfoni, lei non mi dirà che c'è il filtro dei media. Quello può essere giudicato. Guardi, gli atteggiamenti ne vedo tanti, sia da parte dei giocatori, da parte degli addetti diretti al calcio, che soprattutto coloro che stanno intorno al calcio e che vivono con il calcio, purtroppo vivono col calcio pur non giocando, che sono criticabili. Volevo dire un'altra cosa. L'ultima. Negli anni 60 c'era un grande allenatore che veniva da Padova, anzi da Trieste, poi ha fatto grande successo a Padova Milan, che era il Panorrocco, grandissimo, fuori discussione, ma c'era un altro allenatore di grandissima qualità che dettò un mondo nuovo nel calcio, che era il Lenny Herrera. Ah, non c'è nessun dubbio, infatti quando io sento che Mourinho, anche all'interno dell'Inter, viene paragonato ad Herrera, io credo che gli eredi di Herrera sì avrebbero tutto il diritto di querelare, perché la svolta che portò Herrera nel calcio, perché Herrera veramente innovò il calcio italiano e nel calcio italiano da tanti punti di vista, e non solo da quello tecnico e tattico, che pure era la sua specialità. Io qui sinceramente non tutte queste rivoluzioni invece positive intendo non le vedo. Antonio, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, un piacere parlare con lei. Grazie. Senta, io volevo fare una piccola difesa nei confronti del nostro allenatore Mourinho. Sì. Ci dà parecchio addosso. Chiaramente noi del popolo interisti lo difendiamo, altri purtroppo li danno addosso. Mi riguardo, per esempio, faccio un esempio. C'è il Daniele Guastaldello che ha dichiarato che lui non ha preso nessun pugno da Cambiasso. Però purtroppo gli hanno dato lo stesso 2 giorni di esclusione. Tosel così si è comportato. Questa non mi sembra giustizia. Lei cosa ne pensa? Penso che sia un episodio abbastanza strano quello, e penso che in effetti meriterebbe una spiegazione, se non altro, da parte del, ma non tanto lo giudice sportivo. Il giudice sportivo applica un tariffario, è la Procura federale che dovrebbe spiegare come mai è stato ritenuto valido soltanto il rapporto del procuratore federale e non si è tenuta in considerazione la smentita che invece è arrivata dell'episodio, che è arrivata da un giocatore della Sampdoria. Su questo sono d'accordo, è un episodio strano che avrebbe meritato un po' più di spiegazione, no? nel senso della trasparenza. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io volevo il suo parere per quanto riguarda Diego come giocatore. Sì. Nel senso che noi guardavamo Diego nel Werder Bremen, che era veramente quasi un fuoriclasse, nel senso quasi, però quasi Andrea. Quasi. Sì, per l'amor del cielo. Però comunque era un buon giocatore, faceva la differenza. Beh, ma santo, capisce che tra un buon giocatore e un fuoriclasse, lei ha idea di quanta differenza passa? Sì, per l'amor del cielo. Però comunque mi aspettavo qualcosina. Io da Juventino, entrato in squadra uno come Diego, ho detto beh, in centrocampo potrebbe migliorare parecchio, cioè, mi aspettavo sinceramente molto di più. Forse ha ragione lei che quel quasi conta tanto, perché sinceramente quel quasi è il confine, Andrea. Io invece ero perplesso proprio per il Werder Bremen e mi ricordo di averlo detto, attirandomi anche tutto quello che ci si attira in questi casi, proprio a inizio stagione, quando c'era la glorificazione di Diego per quella partita a Roma. Cioè, di andare piano, perché secondo me la caratura da fuori classe che gli era stata attribuita ovviamente per 90 minuti, perché non si bada a spese, no? Anche da parte della critica, mi sembrava un po' prematura, alla luce del fatto che secondo me i fuori classe sono quelli che a, non dico 17, ma entro i 20 anni comunque si sono espressi in tutta la loro anormalità, no? Nel senso di essere davvero fuori norma, se no non sarebbero fuori classe. quelli che arrivano a 24-25 facendo buone cose alterne nel Werder Bremen, con tutto rispetto, secondo me era un po' impegnativo e soprattutto era sbagliato tout court chiamarlo fuori classe, ma insomma lì poi si va sempre a gusti. Sì, stimolato da questa frase di stamane di Zamperini, e cioè Rossi me lo voglio tenere stretto per molti anni, Flavio Suardi è andato a pescare qualcosa di simile all'indietro e non ha fatto molta fatica, non è che ha dovuto tornare agli albori del calcio. Ha pescato il 6 giugno 2009, quando Zamperini disse: io e Zenga non litigheremo mai. Era il 6 giugno, l'esonero è arrivato il 23 di novembre. Ripassiamo la storia, anche questa a suo modo lo è comunque. Che cosa è accaduto in questo giorno nella storia del calcio con Nicola Filippone? Sembra ieri. 1 marzo 1967. L'Inter di Herrera guadagna l'accesso alle semifinali di Coppa dei Campioni eliminando il Real Madrid. Dopo aver vinto a San Siro per 1-0, i nerazzurri si impongono anche davanti ai 120.000 del Santiago Bernabéu per 2-0. Protagonista dell'impresa è Renato Cappellini, un promettente centravanti scoperto da Meazza. Cappellini, che aveva già firmato il gol partita all'andata, sblocca il risultato anche al ritorno, mentre il raddoppio arriva grazie a un'autorete del difensore Zoco. Per il Real si tratta della seconda sconfitta sul proprio campo nelle coppe europee. La prima risale al 21 febbraio del 1962, ad opera della Juventus, vittoriosa per 1-0 con gol di Sivori. A proposito del mago, Carmine, provincia di Latina, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Caranzini. Dica. Se andevo a intervenire sulla partita di ieri, cioè sulla partita di ieri in Napoli-Roma. Sì. E sulle dichiarazioni che l'allenatore Ranieri ha fatto dopo, insomma. Sì. E devo dire che l'ascoltatore di prima, che ha chiamato pure un altro ascoltatore, secondo me ha perfettamente ragione sul fatto che Ranieri abbia fatto un po' il furbo, diciamo, a fare quelle dichiarazioni, perché se avesse subito lui il torto non credo che avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni. Guardi, io di questo sono sicuro, e l'arbitro è stato anche in gamba, perché diciamo che ha fatto una specie di par condicio, dice: non ho dato rigore netto, do quest'altro che non ho visto. Mm-hmm. E lei è d'accordo, non può dire che non è... No, io sono d'accordo, che a questo aggiungerei il fatto che se avessi arbitrato io quella partita, io cacciavo Cigarini e Aronica per due fallaci a metà campo, o come minimo uno dei due, no? Quindi a maggior ragione, secondo me, l'allenatore della Roma avrebbe avuto il diritto di lamentarsi. Non l'ha fatto, ripeto, è un compito che lascia ad altri. Il fatto che questo non sia apprezzato e che sia già il secondo intervento di questo tenore, tra l'altro tutte e due da Latina, adesso non voglio dire che che Latina come dire, abbia qualche problemi come provincia dal punto di vista della sportività, però mi sembra che questi due interventi valgano più di tante indagini sociologiche. Grazie. Luca da Cesena, buongiorno. Ah, buongiorno Garanzini. Una considerazione a proposito di arbitri, e in qualche maniera mi ricollego a quello che ha appena detto l'ascoltatore prima di me, a chiarire, casomai se ne fosse bisogno, che il calcio è bello perché poi ognuno lo vede dal suo punto di vista. Mm-hmm. Io sono straconvinto che noi abbiamo degli arbitri molto bravi, ma aiutati zero, pochissimo aiutati. E in questo senso vedo troppi giocatori che aspettano di essere toccati, ma non colpiti, toccati. E secondo me quello di Quagliarella ieri è un esempio lampante. Lampante, senso, su questo sono d'accordo al 1000% con il lei. Il calcio è uno sport di contatto. Certo. I giocatori quando fanno così non aiutano l'arbitro. Ma infatti secondo me non è rigore quello su Quagliarella, perché quando Wang ha esaurito la sua scivolata, se Quagliarella volesse davvero andarsene via, ha di nuovo la possibilità, con un piccolo saltello e un tocco sulla palla, di riprenderla e di andarsene. Invece aspetta di stramazzare, e probabilmente su questo ha deciso. Io adesso, al di là poi dell'episodio, penso che lei abbia che abbia completamente ragione. Mi piacerebbe un suo commento, scrive Giovanni da Brescia, sulla mancata stretta di mano di Terry in Chelsea-Manchester. È l'altro che non gli ha dato la mano a Terry, mi sembra. Se quello che si è raccontato è successo, mi sembra il minimo. Cioè, già il fatto che anziché una mancata stretta di mano non sia partito un cartone, mi sembra che già sia un segno comunque di fair play. Ma Platini a 20 anni cosa aveva fatto? Domanda un ascoltatore. Beh, insomma, se vuole le proietto, anche se ce l'ho però in casa da qualche parte, qualche immagine del Platini ventenne che giocava ancora, credo, a Nancy allora, non ancora a Sant'Etienne, ma qualche immagine di nazionale comunque, di come calciava le punizioni Platini allora e della personalità che aveva in campo e di come tutti a 20 anni nel club e in nazionale giravano intorno a lui. Poi se crede ne riparliamo. Roberto ha chiamato la Modena, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Garanzini. Volevo dire che secondo me un po' di uniformità nei giudizi arbitrali ci sono negli arbitraggi, perché le spiego, devo confessare che sono interista, lo confesso. Mi sono collegato 10 giorni fa, quando c'è stato Bari-Milan, era il 20° del primo tempo e ho visto subito due entrate di Gattuso su un giocatore con la palla fermo, due entrate da dietro non sanzionate dall'arbitro. Al 28° ho visto che c'era rigore per il Bari, una trattenuta clamorosa in area e non gliel'hanno sanzionata, c'era un rigore sullo 0-0 che avrebbe inficiato sicuramente l'esito della partita. Poi ho seguito, perché ero curioso, gli ultimi arbitraggi del Milan, l'hanno arbitrato con un'uniformità di giudizio, perché anche con la Fiorentina c'era il rigore, non gliel'hanno dato, ieri gli hanno dato un rigore che non c'era. No, questo non lo dica Roberto, vede cos'è che tradisce voi tifosi, che volete stravincere, cioè se anche riuscite a dirne due giuste di fila, e indubbiamente quelle di Bari e di Firenze erano giuste, poi arriva la terza su cui cascate, ma questo è un problema di tifo che fa male, intendiamoci, non è un problema suo personale, è un problema generale. Se lei mi avesse detto che oltre all'episodio Gastaldello di cui si parlava prima c'è un altro segnale, non dico di inquietudine, ma comunque di curiosità e di quelle curiosità che possono preludere a qualcosa, che è questo: ma perché non è scattata la prova TV per Huntelaar? Ma perché uno può fare gol fuori casa, andare sotto la curva dei tifosi avversari e fare il gesto dell'ombrello? Ma perché se un giocatore adesso non può, giustamente, non può più permettersi di bestemmiare Coran Populo perché viene preso a tradimento da un labiale, da una lettura della telecamera? Perché invece, senza bisogno di labiali o di ingrandimenti d'immagine, può andare sotto la curva avversaria e fare il gesto dell'ombrello? No, senza nemmeno. Ma perché Balotelli deve pagare 7.000 euro di multa dopo Chievo-Inter per essere andato a zittire col dito gente che gli ha fatto dei burazzisti per finché era stato in campo, e invece il signor Huntelaar non se l'è filato nessuno col suo gesto all'ombrello? Queste mi sembrano domande, non che quello di ieri su Bonera non era rigore, perché questo è veramente avvilente da parte sua. Girolamo da Milano, buongiorno. Girolamo, dica. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Arrivato, mi chiamato, volevo fare due commenti veloci. Il primo è che la Juventus nel mercato di riparazione ha comprato due giovani, e questo giustifica forse alcune prestazioni non all'altezza. Mancanza di rincalzi, sostituiti da giovani non pronti a partire di questo livello. La seconda è che la classe arbitrale, sicuramente in buona fede, è fatta da uomini suscettibili quindi da imprecazioni, da richiami, da lamenti, da discussioni, da continue manifestazioni di sofferenza da parte degli allenatori, e poi le conseguenze si vedono sui campi. Ascolto per radio, grazie, buongiorno e bravo. Grazie Girolamo, mi spiace per Michele della provincia di Napoli, che era già prenotato e che, se gli fa piacere, sarà il primo a intervenire domani, ma il tempo è scaduto, giusto quello che rimane per ringraziare Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadori in regia, e darvi il buon pomeriggio.